L'attentato condotto a Mumbai da terroristi islamici, legati o meno ad Al-Qaeda, si distingue dai precedenti più per ragioni tecniche che politiche o ideologiche. Negli ultimi 6 mesi, infatti, i terroristi hanno ucciso in India almeno 200 persone in 7 attentati maggiori, tutti condotti però con ordigni esplosivi posti in luoghi più o meno affollati. Questo attentato invece è stato condotto come un vero e proprio attacco armato, utilizzando fucili, granate e concludendo, a fine di massimizzare il terrore, con la presa di ostaggi e barricandosi in alberghi di lusso. È come il tentativo di esportare le tecniche della guerra civile, della guerriglia, nel pieno centro di una città pacifica, lontana da ogni fronte di conflitto. Potrebbe essere una sorta di nuova dimensione ricercata dal terrorismo internazionale, che in qualche maniera tenta sempre di rinnovare la sua immagine di portatore di paura.